Ehi, se compro l'erba vado in bicicletta. Ehi, sempre meglio che prendere il tram. Ehi, lo sbirro accosta dove vai di fretta. Ehi, la fai una foto, sono un grande fan. Ehi, ti immaginavo su una Lamborghini. Ehi, ti facevo un filo meno basso. Ehi, mi viene in mente solo cazzo e ridi. Ehi, io sono un tipo da profilo basso. Ehi, giro di notte con il passo svelto. Ehi, se parlo poco perché ho il chiasso dentro. Ehi, in questa vita bro ci vuole il culo. Ehi, tu invece hai avuto solo il e buono al mic, faccio una strage tipo Terza Reich. Scherzo dai, piacere felice bro, felice mai. Sulla cresta dell'onda ma Dio cos'hai? Cobra Kai, veterano io, l'ultimo samurai. Ma non siete milionari, non siete Jerry Scotti. Non siete Travis Scott, sembrate tre biscotti. Pistole ad acqua nascoste nei giubbotti. La vita sì è infame ma è meglio di brumati. Wendy sono a Tom, Sweet Tom. Sta scena è così dolce che sembra una sitcom. Si vestono da donna poi comprano strap-on. Per trappanarsi il culo fanno lui Sweet Tom. Wake up, dico stica, stica. Sono in giro in città, sul mio pick-up. La mia penna spara ancora su chiunque. La musica è una troia, do due colpi e vengo al dunque. Piach! Mi lamento del paese, stai zitto. Non arrivo a fine mese, stai zitto. Ehi, tutta colpa dei migranti, stai zitto. Senegalese, stai zitto. E marocchini, stai zitto. Tieni le spalle su, stai dritto. Ti ha detto di girare, vai dritto. Se parli con me, stai zitto. Stai zitto, ma stai zitto. Molta gente al diavolo ha venduto solo l'anima. Io ho venduto pure un tour di mille date all'aldilà. Entro di nascosto tipo chi va là. Ogni 15 minuti muore una celebrità. Faccio shopping online ma la carta non funziona. Dicono compra sta ganja, poi la fumi non è buona. Spendo un capitale ma non siamo a Roma. Questi rapper hanno fame, per mangiare c'è la coda. Sono fan di questa moda di mixare i brand. Ho provato a fare lo stesso con nomi delle band. Entriamo in questo club VIP, mettiamo i Sex Pistols coi Public Enemy e facciamo in public. Più soldi fai, più ci sono drammi. I social causano danni. Non guardo la TV, vecchi programmi. Non credere a nessuno sotto i 30 anni. Mi vorrei reincarnare in un trap boy per poter dire solamente yeah yeah. Senza offesa, anche a me piace la trap boy. A 18 anni mica scopri se ascolti gli Slayer. Tutti commentano, è un loro diritto. Che i primi 4 dischi ci ho pagato l'affitto. Se non ti piace la mia roba io l'accetto. Dammi un milione e smetto, oppure stai zitto. Sollevo la mia pelle per guardare sotto. Dentro non c'è il sole, piove di rotto. Sputo fumo, questa guida fa il cerchio di Giotto. Qualcuno chiami il 118. Ehi, sono a terra già dal primo round. Sai chi veglia sopra le mie barre? Primo Brown. Mi rialzo barcollante, sono a Square Garden. Ho già visto il sole nero tipo Soundgarden. I vecchi scureggioni della pop music sono un po' in difficoltà, sono confusi. In classifica per primi solo i rappusi. Quindi porgo le mie scuse, mi scusi. La gente qui mi dice ma sei pazzo. Non vedi piove merda sopra questa città? Ah, dovrei farmi anche più spazio. Andare tutto fazio, da fazio a che tempo che fa? Mi lamento del paese, stai zitto. Non arrivo a fine mese, stai zitto. Ehi, tutta colpa dei migranti, stai zitto. Senegalese, stai zitto. E marocchini, stai zitto. Tieni le spalle su, stai dritto. Ti han detto di girare, vai dritto. Se parli con me, stai zitto. Stai zitto, ma stai zitto.